Focus Economia. Sette minuti, un saluto da Vincenzo Miglietta, puntata di Focus Economia dedicata in larga misura all'estero, con notizie che riguardano Grecia, Cina e Russia. Nell'ordine, Atene, con l'accordo tra il governo di Tsipras e i creditori, un'intesa tutta da confermare a livello politico, ma che si baserebbe su 35 azioni prioritarie che vanno dalla tassazione dell'industria mercantile alle liberalizzazioni, dalle pensioni anticipate alle esenzioni fiscali per le isole da eliminare gradualmente, un memorandum di 27 pagine che dovrebbe mettere fine al braccio di ferro al quale stiamo assistendo ormai da mesi e che dovrebbe sbloccare aiuti per Atene per quasi 90 miliardi di euro. Vi chiedo allora subito un vostro commento, mandate un SMS al 349-238-6666. Scriveteci anche sugli altri temi della puntata che vi vado ad anticipare, a partire dalla svalutazione record dello yuan fatto dalle autorità cinesi, che ha portato il cambio ufficiale ai minimi da circa 3 anni nei confronti del dollaro. Mossa questa di Pechino, evidentemente finalizzata tutta a dare nuovo sprint all'export, export basilare, lo ricordiamo, per l'economia cinese, rimasta al palo negli ultimi mesi con un PIL ufficialmente a 7%. Ne parlavamo ieri, ma sicuramente più basso secondo gli analisti, vista anche la frenata delle quotazioni delle materie prime, dal rame al petrolio, materie di cui in passato la Cina era in continuo approvvigionamento, determinando prezzi delle materie prime ben più alti. Ora non è più così, la domanda interna non decolla, da qui la speranza delle autorità cinesi che la svalutazione dello yuan possa mantenere il livello delle esportazioni. Il passo poi da questo argomento è breve per arrivare allora a parlare di un altro paese in difficoltà. Sono i numeri del PIL a confermarlo. La Russia mostra una contrazione del prodotto interno lordo del 4,6%. Anche qui le cause sono diverse, dalla bassa quotazione di petrolio e gas di cui la Russia è produttrice all'embargo occidentale post-Ucraina che penalizza comunque Mosca. E in tema di crescita guardiamo allora al nostro paese. L'unico vero driver trainante della ripresa sembra essere proprio l'export, grazie a quelle imprese che pur in tempo di crisi hanno continuato ad investire riuscendo ad intercettare la domanda internazionale. La chiave di lettura del successo sembra essere proprio quello dell'innovazione e della riconoscibilità del prodotto. Questo ha fatto la differenza tra un sistema che si è polarizzato, da una parte imprese di alta qualità, dall'altra imprese che oggi il Sole 24 Ore definisce asfittiche. Partiremo proprio da qui tra poco nella prima fase di Focus Economia. Dicevamo dei mercati finanziari che, a parte Atene, oggi in terreno positivo, mostrano in questo momento tutto il segno meno. Allora il FTSE MIB a meno 1,03, Francoforte meno 2,60, Londra meno 0,72, Parigi meno 1,75, Wall Street in terreno negativo, Dow Jones intorno al meno 1%, meno 0,97, euro su dollaro oggi ad 1,10. Questo dunque è il nostro percorso di oggi. Scriveteci allora al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di radio24.it. Passiamo ora alle notizie in breve. In breve, che come sempre le facciamo partire dalle materie prime. Oro: il prezzo dell'oro sale dello 0,3% a $1,107 l'uncia, il petrolio in forte calo a New York dove perde il 3,5% a $43,3 al barile, e proprio al petrolio dedicheremo l'ultima parte della nostra trasmissione. Veniamo quindi all'economia internazionale. Le fusioni e le acquisizioni a livello mondiale si apprestano a segnare un nuovo record. Se il tasso di crescita continuerà a ritmo attuale, il 2015 si chiuderà con accordi per 4.580 miliardi di dollari, una cifra superiore al precedente record di 4.290 miliardi di dollari del 2007, lo riporta il Wall Street Journal. Ed ora veniamo ad una delle notizie già date, ma importantissima per oggi, perché la sua influenza si è avuta anche sui mercati. La Cina svaluta a sorpresa lo yuan per cercare di combattere il rallentamento sempre più evidente dell'economia. La banca centrale ha operato la maggiore operazione degli ultimi 20 anni, portando la quotazione ufficiale della moneta nei confronti del dollaro a 6,22, meno 1,9%, specificando che si tratta però di una misura una tantum. E vediamo le borse cinesi. Chiusura stabile per queste borse dopo la svalutazione dello yuan operata dalla banca centrale di Pechino, il crollo delle azioni delle compagnie aeree, per le quali il rialzo del dollaro significa extra costi in carburanti, è compensato dalla crescita dei titoli delle imprese manifatturiere più legate all'export. L'indice di Shanghai ha chiuso allora invariato a meno 0,01%, mentre Hong Kong ha ceduto lo 0,009%. Pioggia di vendite quindi per Air China, China Southern e China Eastern, oltre il 13% la perdita, che vedranno tagliati i loro utili dal rialzo dei costi per il carburante, mentre il debito denominato in dollari vedrà una crescita. La svalutazione dello yuan operata oggi dalla Cina rischia di innescare una nuova guerra di valute e di non riuscire comunque a riattivare l'economia di Pechino, e quanto afferma la Bloomberg Stephen Rock, già presidente della Morgan Stanley in Asia e ora professore associato a Yale. In un'economia globale debole ci vuole molto di più che una svalutazione dell'1,9% per far balzare l'export, spiega Rock. Questo aumenta inoltre la possibilità che le crescenti e destabilizzanti schermaglie si trasformino in una guerra mondiale delle valute. La Russia ora. Nel secondo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo russo ha subito una contrazione del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, lo riferisce l'Istituto Russo di Statistica Rosstat. Le sanzioni occidentali per la crisi ucraina e il calo del prezzo del petrolio continuano a pesare sull'economia di Mosca. E anche di questo parleremo nell'ultima parte della nostra trasmissione, ma parlavamo dell'Ucraina. Ricorderete il disastro dell'MH17 della scorsa estate. Frammenti di quello che potrebbe essere il sistema missilistico russo Buk sono stati trovati sul luogo nell'Ucraina orientale, dove nel 2014 è stato abbattuto il volo 17 della Malaysia Airlines, uccidendo tutte le 298 persone a bordo. Lo hanno reso noto gli investigatori olandesi, secondo quanto riporta la BBC. Grecia ora ha raggiunto, lo dicevamo, un accordo con i creditori per il terzo salvataggio del paese. L'accordo tuttavia è tecnico, ma manca quello politico. C'è bisogno di una valutazione politica che verrà fatta nelle telefonate che Juncker ha in programma con Merkel e con Hollande. Inoltre ci sarà una teleconferenza degli Sherpa Ecofin che farà il punto, così una portavoce della Commissione precisando di non poter commentare l'intesa. L'Eurogruppo si riunirà venerdì prossimo proprio su quest'intesa. La conferma arriva dal premier spagnolo Mariano Rajoy. E una notizia legata all'Ocse, ma relativa sempre alla Grecia. Il popolo greco è quello che lavora più duramente di tutti gli altri popoli dell'Europa, tuttavia è ben lungi dall'essere il più produttivo, e questo è il dato che emerge da un recente rapporto dell'Ocse. L'indagine si basa sulle ore lavorate in media durante l'anno, e dallo studio Ocse sembra che i greci siano coloro che lavorano di più. I russi sono al secondo posto per ore lavorate, eppure sono i lavoratori meno produttivi in Europa. La produttività della Grecia, misurata in base al prodotto interno lordo per ora lavorata, è a 36,2 punti rispetto alla media europea, che è 50. Qualcosa si muove invece in senso negativo per una volta anche per la Germania. L'indice di fiducia degli investitori tedeschi segna a sorpresa un deciso calo, appesantito dal rallentamento dell'economia globale. L'indice calcolato dall'istituto ZEW ad agosto è sceso a 25 rispetto a 29,7 di luglio, e contro una previsione media degli analisti pari a 31,9. sms al 349-238-6666 ci scrive: quando un paese svaluta la propria moneta vuol dire che siamo ai titoli di coda per quel che riguarda la crescita, così scrive Antonio. Sicuramente Antonio hai ragione, ne parleremo più avanti. Comunque le difficoltà dell'economia cinese ci sono tutte, ma certo una crescita che sia del 7% o del 6% sarebbe comunque invidiabile, almeno per il nostro paese. E proprio di Italia andiamo a parlare. L'inflazione a luglio si attesta allo 0,2%, lo stesso livello di giugno, lo comunica l'Istat nei dati definitivi confermando le stime. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo diminuisce invece dello 0,1%, al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici l'inflazione di fondo sale allo 0,8% dallo 0,6% del mese precedente. Ed infine la Banca d'Italia: si riduce a giugno il calo dei prestiti bancari e passano in positivo quelli delle famiglie per la prima volta dall'agosto 2012. Secondo la Banca d'Italia i finanziamenti ai privati sono calati dell'1% contro il meno 1,2% di maggio. I prestiti alle famiglie aumentano dello 0,1% mentre a maggio erano calati dello 0,1%. Quelli alle società non finanziarie sono scesi dell'1,6%. E sin qui dunque le notizie in breve, ora il primo tema di Focus Economia. Tema di Focus Economia dedicato alla manifattura italiana e alla sua capacità di uscire tutto sommato con buoni numeri dalla crisi. Ne parliamo con Paolo Bricco, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Paolo. Buonasera a te e buonasera a tutti i radioascoltatori. Grazie Paolo per la tua partecipazione. Ricordo Paolo che nel 2008 il valore della produzione medio per azienda relativamente alla manifattura pura era di 4,9 milioni di euro, oggi siamo a 3,5 milioni, nel terziario avanzato si è scesi da 3,3 a 2,3 milioni, il livello medio del valore aggiunto è però calato di meno, mentre gli indicatori di redditività sembrano aver tenuto in questi anni di crisi. In generale quindi gli indicatori tra il periodo pre-crisi ed adesso sono comunque mostrano un saldo negativo, tuttavia anche in base a quello che oggi tu scrivi sul Sole 24 Ore la manifattura in Italia sembra un comparto vincente. Per quale motivo? Sì, innanzitutto richiamerei proprio i dati che tu hai ricordato. C'è un problema dimensionale. E dal 2008 a oggi l'impresa italiana, che già di per sé fin dagli anni 90 ha scontato una riduzione dimensionale media rispetto ad esempio alle imprese tedesche e alle imprese francesi, ha continuato a ridurre il proprio perimetro, ma allo stesso tempo l'impresa italiana sta mostrando una capacità adattiva sorprendente sia in termini di efficienza gestionale sia in termini di tenuta finanziaria. Certo. Che è leggermente più piccoli rispetto al 2008, ma si è altrettanto solidi, ed è proprio questo il paradosso italiano. Come hai giustamente ricordato tu, sul Sole 24 Ore di oggi ha preso l'avvio un'inchiesta su diciamo gli snodi e i nuovi campioni della manifattura, i nuovi territori, nuove filiere, nuovi settori, che proseguirà sulle pagine del quotidiano fino all'incirca metà settembre. Certo. Naturalmente il Sole 24 Ore è tante cose, ma è anche e soprattutto il giornale della manifattura, e domani ad esempio mi fa piacere anticipare agli ascoltatori, la collega Giovanna Mancini pubblicherà un'inchiesta sul legno arredo, uno dei settori fondamentali che ha nel tema della distribuzione una delle dei valori, delle incognite principali. Quindi, e tra l'altro scusami Paolo, prego. Ecco, per tutta l'estate il Sole 24 Ore racconterà, andrà nei territori, andrà nelle imprese campione, andrà anche nelle imprese dove ci sono difficoltà, per cercare di capire qual è lo stato dell'arte, la condizione, la fisiologia del capitalismo. Certo. Manifatturiero, che resta la struttura, l'asse portante della nostra economia e penso anche della nostra società. Assolutamente, prendo spunto per ricordare allora anch'io che domani 12 agosto la pagina sul Sole 24 Ore vi sarà in particolare la pagina dedicata al lavoro e porrà l'accento sulle novità in tema di apprendistato, questo per una settimana dedicata all'estate con il tuo amico Sole. Vi sarà anche un approfondimento sul fronte pensioni, l'analisi prenderà le mosse da un tema particolarmente caldo, ossia le conseguenze dopo la sentenza della Consulta contro il blocco dell'indicizzazione. Torniamo a te Paolo Bricco, collega del Sole 24 Ore, l'analisi sulla manifattura nel nostro paese. Tu nel tuo articolo parli di un sistema di imprese che si è andato polarizzando, da una parte le imprese che non ce l'hanno fatto, comunque che arrancano, sono le definisce asfittiche, dall'altra invece quelle che grazie anche agli investimenti in tecnologia e ad un brand ben riconoscibile si sono imposte sui mercati internazionali. È proprio così. Si sta verificando l'ulteriore accentuazione di una tendenza storica che esiste ormai dai primi anni 90 nel capitalismo produttivo italiano, cioè alla polarizzazione. C'è una minoranza non eccessivamente ridotta, ma almeno un 20%, 25% di imprese che funzionano bene, abbastanza bene, molto bene. Sono imprese innovative, sono imprese che nonostante la dimensione media hanno puntato moltissimo sul loro marchio, sono imprese con una fortissima connessione ai mercati globali, alle cosiddette catene internazionali del valore, laddove c'è la vera ricchezza. E poi c'è un 70, 75, 80% di imprese, di piccole imprese che fanno una gran fatica. La dimensione piccola è uno degli elementi di questa maggioranza, ma non è il principale. La caratteristica principale di quelle che fanno una gran fatica è quello di essere troppo vincolate al mercato interno, che ricordiamolo è il grande problema dell'economia italiana da almeno 15 anni e lo è in particolare dal 2008, e non hanno fatto adeguati investimenti in brand, quindi nella riconoscibilità del marchio e innovazione tecnologica. C'è quindi, però, Paolo, davvero un cuore pulsante che sta funzionando e va ricordato, perché da qui dobbiamo ripartire. Certo, quindi ecco, l'aspetto dimensionale diventa quasi relativo. Certo è penalizzante in alcuni frangenti, ma c'è chi pur riducendo le dimensioni è riuscito invece dall'altra parte, investendo, lo dicevamo, in tecnologia e in un brand riconoscibile ad essere presente sui mercati. Quindi la dimensione non è prettamente fondamentale. Sì, bisogna riuscire ad affrontare il tema dell'economia italiana in maniera non ideologica. È vero che l'assenza di grandi imprese, la riduzione del peso delle grandi imprese produce problemi sistemici, perché sono le grandi imprese che fanno innovazione formalizzata, fanno la ricerca e sviluppo di rottura, hanno i soldi per fare grandi operazioni anche logistico-commerciali. Ma è altrettanto vero che c'è una piccola e media impresa che funziona, che non va condannata soltanto per la sua dimensione, e che ad esempio fa innovazione che magari non viene neanche dichiarata sui bilanci, perché in Italia, ricordiamo, è fortemente penalizzante fare innovazione, non ci sono leve fiscali vere possenti certo. Lungo periodo che inducano il piccolo e medio imprenditore a decidere di tutelare la propria innovazione di prodotto facendo un investimento e poi mettendolo. Quindi innovazione che non passa per i brevetti. Innovazione che non passa per i brevetti. E innovazione che finisce di non passare per i brevetti, con uno svantaggio perché non è tutelata, ma anche con una sorta di vantaggio funzionale, perché diventa una sorta di innovazione liquida che soprattutto va a fare innovazione di processo e di servizio, che per le piccole e le medie imprese italiane è la nuova frontiera. Quindi magari queste piccole e medie imprese non brevettano il vaccino che riesce a sconfiggere l'Ebola, sì, ma riescono a offrire un servizio innovativo alto ai big player italiani, ma anche tedeschi, francesi, americani, coreani, proprio in virtù di questa competenza diffusa che non passa attraverso il canone della formalizzazione brevettuale. Quindi quella italiana, Paolo, è un po' un'anomalia, quindi diventiamo leader di nicchia da una parte nel nostro successo, e poi sempre leggendo il tuo articolo parli di passione artigianale, quindi è quasi un controsenso, laddove nella stessa azienda vi è un'alta tecnologia, un'impresa molto votata agli investimenti nella tecnologia, ma questi vengono poi adattati al prodotto con una passione della nostra tradizione manifatturiera. Una passione, se mi consenti, quasi tattile, quasi manuale. C'è un know-how che viene riconosciuto e ricercato dalle grandi imprese tedesche, che hanno moltissimi fornitori nel nord Italia, in Emilia Romagna, nel centro Italia, dalle imprese coreane, che hanno moltissimi fornitori dell'elettronica, ad esempio nel torinese, da moltissimi fornitori giapponesi che operano tantissimo sul Veneto, ad esempio, che vengono proprio a cercare quella capacità di risolvere problemi incrociando le tecnologie diverse, e quindi le tecnologie elettroniche con le tecnologie meccaniche, la famosa meccatronica ad esempio, riuscendo a trovare soluzioni ad hoc non standardizzate. Questa è una delle grandi caratteristiche, che è veramente una cosa artigianale, più artigianale che industriale, è qualcosa di particolarissimo. Un'ultima domanda velocissimo, Paolo, come si può riuscire a far sì che poi la domanda interna sia invece poi attratta da questa tipologia di prodotti? È un fatto solamente di target economico, quindi il nostro mercato interno non può permettersi questi prodotti, o c'è qualcosa che non va? Velocissimo, siamo un'economia che produce ricchezza assistita in maniera eccessiva, dipendiamo ancora troppo dalla spesa pubblica improduttiva. Dipendiamo ancora troppo anche dalla spesa pubblica produttiva. Le nostre imprese sono costrette ad andare fuori sui mercati globali per vivere, sopravvivere e prosperare con l'export. Sul lungo periodo però questo non basta. Lo ha capito anche la Germania, che da condizioni molto diverse sta rimodulando i propri meccanismi interni per fare ripartire anche, aumentare ancora la domanda interna. Non possiamo non capirlo noi. L'impresa e l'industria producono ricchezza reale. Il paese ha bisogno dell'impresa e dell'industria, come ha anche bisogno di servizi efficienti. Non possiamo essere un paese così inchiodato alla spesa pubblica improduttiva, alle pensioni e a tutto ciò che dà pace sociale, dà coesione sociale, ma non crea vera ricchezza. Vera ricchezza. Domanda. Perfetto, grazie a Paolo Bricco, collega del Sole 24 Ore. Si chiude qui questo primo tema dedicato al Made in Italy. Passiamo velocemente alla Grecia e ringrazio, l'abbiamo avuta ospite ieri, la collega Roberta Miraglia, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Roberta. Buon pomeriggio. Roberta, lo anticipavi perfettamente ieri, eravamo a poche ore da un accordo tra il governo di Tsipras e i creditori, un ampio pacchetto di misure in un accordo di ben 27 pagine. Secondo te a questo punto è più vicina la possibilità di ottenere per Atene i famosi 86 miliardi di aiuti? Sì, è più vicina perché oggi c'è stato un accordo di principio con le tre istituzioni, con i creditori, la cosiddetta troica. C'è da tenere presente che in secondo questa tabella di marcia, dopo questo accordo di principio, domani il Parlamento greco dovrebbe votare, tra domani e giovedì, una serie di riforme, dopodiché venerdì si parla già dell'Eurogruppo. Ecco, lì potrebbe insorgere qualche problema anche politico, perché infatti, come si è affrettata stamattina la Commissione a sottolineare, questo è un accordo tecnico fatto dai tecnici. C'è un accordo che però deve avere poi una validazione politica, e a proposito di politica i tedeschi sono refrattari, nel senso che vorrebbero avere più tempo, non che non vogliano dare questi soldi alla Grecia, perché prima o poi sono rassegnati che dovranno comunque fare il bailout. Magari aspettiamo di vedere venerdì se si convinceranno anche i tedeschi che in questo accordo, studiandolo con calma, hanno sottolineato che lo vogliono leggere e studiare con molta calma, se ci sarà abbastanza tempo, se questa calma arriverà, cioè sarà sufficiente il termine di venerdì. Comunque al bailout si arriverà, se non è adesso sarà a settembre evidentemente. Quindi allora, giovedì, se non sbaglio, voterà il Parlamento di Atene. Venerdì vi dovrebbe essere il via libera politico all'intesa di oggi, tutto finalizzato anche a vedere poi se la Grecia entro il 20 sarà in grado, come anticipavamo ieri, di restituire 3 miliardi, se non sbaglio, anche alla Banca Centrale Europea. Sì, e teniamo presente anche che per dare il via libera secondo questa tabella a un'eventuale prima tranche del prestito, si parla di 20 miliardi sugli 86 triennali, ci deve essere anche il pronunciamento del Parlamento tedesco e del Parlamento finlandese, quindi è una corsa contro il tempo, comunque si potrebbe fare entro il 20 di agosto. Resta il fatto che è un problema secondario che se non si faccia entro il 20, perché ci sarà il cosiddetto prestito ponte, saranno dati altri soldi dal Fondo Salva Stati Europeo per coprire il pagamento alla Banca Centrale Europea. Certo, certo. Roberta, i nostri ascoltatori giustamente al 349-238-6666 ci chiedono lumi sui contenuti di quest'intesa. Penso che la parte più importante siano le promesse di Atene sul sistema fiscale. Cosa va a cambiare? Beh sì, sul sistema fiscale e previdenziale, nel senso che da un lato si prevede una tassazione più pesante, per usare un eufemismo, perché finora è stata quasi esentasse per l'industria mercantile, quindi i famosi armatori di cui abbiamo spesso parlato dovranno vedere incrementate le tasse sui propri certo. profitti. E al tempo stesso si prevede un programma che introduca degli elementi di anticipo, come avviene anche in Italia per esempio per i lavoratori autonomi e le imprese, di anticipo delle tasse dovute, che attualmente non è, quindi aumentare quelle che vengono date l'anno prima, quindi un sistema migliore di tassazione anche più efficiente. E poi c'è la questione delle esenzioni delle isole, che dovrebbero finire, secondo quanto si impegna a fare Atene, entro il 2016, e lentamente partendo dalle isole più ricche per finire a quelle meno ricche, anche loro dovranno avere un sistema ordinario di IVA, quindi al 23%, anche la ristorazione, anche gli hotel. E infine sulla previdenza. Sulla previdenza e le pensioni, sì, certo. Atene ha dovuto ammettere che sia insostenibile il loro sistema, ma è un sistema veramente molto complesso. Loro già nel 2010 avevano fatto una riforma, che però non hanno attuato, una riforma che prevedesse l'eliminazione graduale di tutte le forme di pensionamento anticipato. Ora, finalmente dicono che andrà attuata totalmente, che quindi dovranno essere eliminate da subito le forme di pensione anticipata, che permettevano, per esempio, secondo alcuni studi fatti dalla Commissione qualche anno fa, permettevano di andare in pensione anche con soli 25 anni di contributi, attraverso poi un'integrazione dell'assegno pensionistico che si chiama ECA e che è a carico del pubblico, perché non si pagano i contributi. Quindi sì, questo sì. permetteva di avere pensioni più alte anche quando si fosse lavorato poco. Tutto questo andrà ad essere eliminato con un'età pensionabile a 67 anni. O con forti penalizzazioni laddove si vada prima. E poi fin qui le buone intenzioni, poi logicamente uno dei punti cardine dell'accordo sono i controlli anti-evasione, e logicamente tutto questo può andar bene, sto parlando soprattutto del sistema fiscale, sempre che vi sia qualcuno che controlli poi che i famosi scontrini, adesso la metto così sul semplice, vengono emessi. Sì, questo purtroppo è un problema che vale per tanti paesi, non solo per la Grecia, e comunque a questo proposito si prevede tra le misure anche un rinforzo della loro guardia di finanza, proprio per perseguire i crimini finanziari e anche l'evasione fiscale. Ecco Roberta, cambia qualcosa per le banche, e poi se non sbaglio nel momento più difficile degli ultimi mesi per la Grecia vi era anche un problema per quanto riguarda i farmaci, l'approvvigionamento. Sì, in effetti si prevede una riduzione del prezzo dei farmaci generici quanto all'approvvigionamento, quindi si prevedono delle condizioni di maggior favore, e poi si prevede invece per quanto riguarda le banche, questo è un capitolo molto spinoso, naturalmente sì, sì. le banche vanno ricapitalizzate, c'è chi stima in 25 miliardi, cioè circa la metà di quel fondo delle privatizzazioni, l'esborso che dovrà essere fatto per la ricapitalizzazione. Per il momento si parla di 10 miliardi da mettere subito sul piatto della ricapitalizzazione delle banche, ma il vero problema è che intanto per quanto riguarda i crediti in sofferenza pare che sia stato raggiunto l'accordo di non cederli a delle società specializzate, perché questo comporterebbe una svalutazione dei crediti stessi, ma di metterli probabilmente tutti insieme in una bad bank, ma non non è sicuro, perché su questo ancora non c'era molto accordo tra creditori e Atene. Del resto l'accordo oggi è di principio, poi vedremo. Ma la cosa che preoccupa di più è che si riesca effettivamente a portare in questo fondo sovrano, con i proventi delle privatizzazioni, quella somma molto elevata di 50 miliardi su cui fa perno l'accordo, perché se non si riescono a fare le privatizzazioni, io vorrei solo ricordare che negli anni le privatizzazioni già dal 2010 sono state promesse e si facevano delle stime di 11-19 miliardi, poi via via si assottigliavano tutte queste somme perché non si riuscivano a effettuare. Non si riusciva ad intervenire. Non è stato fatto nulla sotto quell'aspetto in questi anni. Qualcosa è stato fatto, qualche privatizzazione è stata fatta, qualche miliardo è stato portato a casa, però ci rendiamo conto che adesso questo accordo poggia su un'idea di un fondo sovrano da 50 miliardi, e lì c'è anche c'è stata tutta la discussione di far gestire da autorità tra virgolette indipendenti il fondo sovrano, anche se comunque greche, perché nel momento peggiore della crisi a luglio i tedeschi avevano quasi ipotizzato che venisse portato fuori dalla Grecia il fondo e che i beni venissero conferiti senza che le autorità greche potessero, e il che non può essere ovviamente, visto che è uno stato sovrano la Grecia, e lo farà la Grecia, ma ci auguriamo che si riesca a tenere questa tabella di marcia con tanti soldi da portare a casa con le privatizzazioni. Certo, certo, quindi mi sembra di capire che il percorso sia ancora lungo. Ricordiamolo, a giovedì il voto del Parlamento di Atene, venerdì poi l'Ecofin, seguiremo comunque sia giovedì che venerdì entrambi gli appuntamenti. Grazie a Roberta Miraglia, collega del Sole 24 ore. Ora brevemente la chiusura del FTSE MIB a meno 1,11, dopo meteo e pubblicità la borsa. Focus Economia. Economia di nuovo insieme. Un messaggio al 349-238-6666 che si collega al tema di cui abbiamo parlato pochi istanti fa, la Grecia e soprattutto l'accordo con i creditori, l'accordo che prevede un inasprimento fiscale per gli armatori greci. Allora ci scrivono: aumentare le tasse agli armatori che non hanno nessuna attività locale ma operano in un contesto internazionale molto competitivo sui prezzi li fa solo scappare. Ricordo che Norvegia e Danimarca hanno regimi fiscali molto favorevoli per far rimanere i loro armatori nelle loro nazioni. Questa è la riflessione di un nostro ascoltatore al 349-238-6666. Dico solamente che qualcosa andava fatto, perché il paese, la Grecia, è in profonda difficoltà e anche gli armatori qualcosa devono pagare. Ora siamo alla borsa, ci concentriamo sulle contrattazioni di Piazza Affari, lo facciamo con il collega Andrea Fontana, Radio Core, il Sole 24 ore. Buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio a voi. Andrea, allora, giornata abbastanza negativa per tutte le borse, la svalutazione dello yuan preoccupa i mercati e, se non sbaglio, ha portato a vendere i titoli dei gruppi che esportano di più in Cina, ne ha risentito anche il petrolio. Milano, abbiamo detto, ha chiuso a meno 1,12. Sì, Milano ha chiuso sui minimi, così come hanno fatto un po' tutte le borse europee. La peggiore è stata Francoforte, proprio penalizzata dal discorso che tu accennavi, ovvero dalle vendite su molti gruppi industriali esportatori in Cina, a cominciare dal settore auto, visto che le case tedesche automobilistiche sono particolarmente esposte nel mercato asiatico. Certo. Abbiamo visto perdite su Daimler, BMW, Volkswagen tra il 3,5% e il 5%. In generale sono state penalizzate, oltre all'auto, anche il lusso e il settore delle materie prime, perché i timori di un'ulteriore frenata e rallentamento del mercato cinese ha avuto effetti sui prezzi delle materie prime, a cominciare dal petrolio, con il Brent e il WTI, ovvero il barile di riferimento a Londra e a New York, che hanno perso il 3-4%. Ecco, per quanto riguarda il lusso, male, malissimo, Ferragamo, Tod's e Luxottica. Sì, sono la gran parte dei titoli delle aziende, scusate, che sono più presenti, che hanno una larga parte dei loro ricavi e degli utili realizzati in Cina. Quindi Ferragamo ha perso il 5,5%, è stata la peggiore, Moncler e Tod's hanno perso oltre il 3%, anche Luxottica ha perso il 2,7%. Per alcuni di questi titoli, mi riferisco a Luxottica ma anche a altri titoli del settore, ha finito per pesare anche l'indebolimento del dollaro nei confronti dell'euro, perché si teme, oltre che all'indicazione arrivata ieri da Fischer della Federal Reserve sulla possibilità che il rialzo dei tassi negli Stati Uniti non avvenga a settembre ma più in là, ma si teme anche che questa mossa di svalutazione dello yuan abbia effetti sulle esportazioni americane in Cina e di conseguenza sull'andamento dell'economia americana. Certo. Andrea, due aziende che sono esposte in maniera diversa nei confronti del mercato cinese, Pirelli è molto esposta su quel mercato, perde ma resta sopra il prezzo dell'OPA, e poi la Fiat, che non è stata così penalizzata come gli altri marchi automobilistici di cui parlavi tu prima. Sì, sicuramente Fiat ha un peso, diciamo una presenza in Cina inferiore a quelle delle case tedesche, quindi è stata penalizzata in misura minore, come già avvenuto altre volte quando i mercati andavano a scontare l'effetto Cina, quindi ha perso l'1,7%. Pirelli attende per oggi è stata penalizzata come tutto il settore auto, ha perso sì. l'1,4%, ma oggi per Pirelli gli occhi sono puntati invece su qualcosa di diverso che riguarda sempre la Cina, ovvero l'ingresso dei nuovi investitori cinesi, cioè Cap certo. China, nel capitale di Pirelli attraverso una serie complessa di società, che lancerà poi un'offerta pubblica d'acquisto appunto a 15 euro. E nonostante il calo del mercato di oggi, un meno 1,4% Pirelli, il titolo ha tenuto il prezzo dell'OPA, ha chiuso a 15,04 euro, OPA che verrà lanciata a settembre con l'obiettivo di ritirare il titolo del gruppo di pneumatici dal mercato milanese. Certo, dicevamo del petrolio sempre ai minimi, anche oggi ai minimi, e credo che la debolezza dell'Eni sia legata proprio al prezzo del petrolio. Sì, il settore petrolifero ha risentito particolarmente dell'andamento dei prezzi del greggio di oggi. Eni ha perso l'1,7%, ma poi nel resto d'Europa anche altri titoli del settore come sì. Total, BP eccetera sono stati molto penalizzati. È una fase particolarmente complessa per il settore petrolifero perché questi ribassi del greggio non danno una positiva visibilità agli investitori su questo settore, quindi si tende facilmente ad alleggerire, soprattutto ad uscirne, certo. In cui il prezzo del greggio corregge come oggi. Per chiudere, Monte dei Paschi di Siena che è tornata ai massimi dall'inizio dell'aumento di capitale. Sì, Monte dei Paschi di Siena è stata la migliore oggi a Piazza Affari, ha guadagnato lo 0,6%, sta vivendo una fase di riscoperta in borsa dopo l'aumento di capitale che c'è stato nel mese di giugno. Il titolo è tornato sopra 2 euro, quindi appunto sui valori di inizio del precedente, insomma all'inizio dell'aumento di capitale, ma soprattutto molte case di investimento la stanno un po' riscoprendo tra i bancari italiani, perché è chiaramente è quella che con un recupero dell'economia italiana, una situazione di maggiore stabilità certo. Del settore del credito in Italia, potrebbe avere i maggiori margini di ripresa anche in borsa, senza dimenticare che insomma da tempo si parla di una fusione, di un'integrazione con altri gruppi bancari probabilmente internazionali per Monte dei Paschi, quindi quello sarebbe un effetto speculativo importante che continua ad avere certo. effetti sul titolo e a sostenerlo. Benissimo, grazie ad Andrea Fontana, collega di Radio Corriere Il Sole 24 Ore. Adesso il traffico e poi la debolezza del petrolio e le difficoltà della Russia. Focus Economia. Quarantotto Focus Economia, di nuovo insieme. La caduta del petrolio, chiamiamo così questa ultima nostra parte della trasmissione, parliamo adesso del petrolio e poi dell'economia della Russia. Per quanto riguarda il petrolio, ne discutiamo con Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Buon pomeriggio, Tabarelli. Buongiorno, grazie. Buongiorno. E Tabarelli, di nuovo il petrolio in forte calo, il greggio che a New York perde il 3,5% e scende a $43,3 al barile, il petrolio ha già alle spalle 6 settimane consecutive di flessione, sappiamo questo accadere a causa dell'eccesso di offerta a fronte di una domanda in calo, ma l'interpretazione di questo prezzo così basso si riduce solamente a questa considerazione? Ma ci inseriamo all'interno in realtà di sei mesi, quasi un anno di calo, perché tutto cominciò intorno a ottobre, novembre, quando l'OPEC si riunì a fine novembre e l'Arabia Saudita si rifiutò di tagliare la produzione. Da allora cominciò un crollo che è tuttora in corso, aveva portato a dei minimi a $46 a gennaio scorso, a metà gennaio, adesso siamo tornati a quei livelli. Eccesso di produzione, certo, in particolare da parte dell'OPEC, dell'Arabia Saudita, ma poi anche rallentamento della domanda, e in particolare di quella cinese, solo in parte compensata dalla ripresa forte della domanda di benzina americana. E poi c'è sempre la debolezza europea, dove l'economia non cresce. Ecco, Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, la domanda quindi è il fattore chiave, credo che ci riferiamo principalmente alla Cina a questo punto, perché l'Europa comunque tra macchine che consumano sempre di meno e in maniera più pulita, non so quanto potrà contribuire l'Europa in futuro proprio al consumo di carburanti, ma in questo momento credo che si sconti veramente la frenata della Cina. Sì. Cina, Asia nel suo complesso, c'è da dire che comunque la domanda aumenta, sempre 1,2 milioni, 1,4 milioni all'anno, la regola ormai degli ultimi 50 anni, ecco 40 anni, è che ogni anno la domanda aumenta intorno a 1 milione barili giorno, negli ultimi 10 certo. anni era anche 1,5 milioni, quest'anno sarà 1,2, aumenta sempre parecchio, ricordo che l'Italia che è uno dei principali consumatori al mondo, intorno all'ottavo, nono posto, consuma 1 milione di barili giorno, e la produzione della Libia in condizioni normali era 2 milioni di barili giorno, perciò c'è sempre più bisogno del petrolio, perché la mobilità nel mondo, che cresce tantissimo, si fa soprattutto con i derivati del petrolio. Detto questo, veniamo da un anno in cui per la rivoluzione americana dello Shell, del Tito, del fracking, assieme alla competizione che si è creata nel Medio Oriente, dove lei parla di prezzi in calo $45, ma noi in Medio Oriente abbiamo dei costi di produzione che sono intorno ai $5 per barile, ecco lì c'è scatenata l'Iraq che sta tornando, l'Iran che vuole ritornare, l'Arabia Saudita che non vuole far posto, tutte queste cose hanno portato un eccesso di offerta che è oltre 1,5 milioni, che è la crescita della domanda. Perciò squilibrio. Ecco Tabarelli, non ho colto bene per un motivo di linea, quanto costa alla produzione in Medio Oriente il barile? Mi scuso, era $5-10 per barile, sono dei certo. costi straordinariamente bassi. Bassi. Oggi circolano sulla rete delle foto che fanno vedere un pozzo in Iraq da dove sgorga del petrolio, lì basta fare veramente un buco di 100 metri, si trovano dei giacimenti giganteschi, sono quelli che conosciamo dagli anni 30, che fra l'altro non sono stati ammodernati dopo le nazionalizzazioni degli anni 70, perciò lì sotto c'è ancora tantissimo petrolio. C'è ancora tanto petrolio, così come lo diceva già lei, c'è tanto petrolio anche in Iran, che sappiamo tornare nella comunità internazionale dopo l'accordo sul nucleare. Sì, tutti ci speriamo, perché è una delle condizioni per riportare stabilità e pace politica in quest'area. 2,8 milioni di barili giorno la produzione attuale, prima dell'embargo era 4 milioni, che era una soglia su cui si era stabilizzata nei precedenti 20 anni. Ricordo che l'Iraq però prima del 79, prima della rivoluzione comunista, produceva 6 milioni, aveva la volontà e potenzialità per arrivare a 10 milioni di barili giorno, ed ha una popolazione che ha raddoppiato a 80 milioni di persone. È il primo paese al mondo, l'Iran, per riserve di gas, perché noi parliamo sempre di petrolio. Di petrolio, ma anche il gas, certo. Certo, sottoterra il petrolio e il gas sono la stessa cosa, sono idrocarburi, cioè carbonio e idrogeno. Il futuro dell'energia del mondo sarà molto gas, è il primo paese al mondo per riserve, subito dopo la Russia, che in crisi, bene, bene. Poi è proprio per il prezzo del basso, è l'Iran. Grazie, grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Noi restiamo su un argomento legato strettamente anche alla bassa quotazione del petrolio. Parliamo di Russia in recessione, lo facciamo con Claudia Segre, segretario generale Assium Forex. Buon pomeriggio, Segre. Buon pomeriggio a lei. Parlavamo quindi di un petrolio in molto debole e quindi conseguentemente viene penalizzata anche la Russia, che ha nella sua pancia una grande quantità di petrolio ma anche di gas. Beh sì, non solo questo, è chiaro che la recessione davanti alla quale ci troviamo con questo dato del meno 4,6% che segue un meno 2,2% del primo trimestre è frutto non solo chiaramente delle pressioni derivanti dal petrolio ma da questa spirale che si è creata tra un inflazionario rialzo e un ribasso del rublo, quindi gli interventi certo. coraggiosi della banca centrale in questo momento non sono riusciti a scardinare questo tipo di spirale ribassista che crea problemi ma che d'altra parte ha fatto guadagnare alla Gazprom un più 71% sull'utile netto del primo trimestre. E quanto influiscono le sanzioni imposte dall'Occidente dopo la crisi ucraina? Ma tantissimo, queste sanzioni stanno condizionando l'attività di molte società, non solo energetiche ma soprattutto delle banche. C'è il rischio di un effetto sistemico, cioè questa recessione della Russia rischia che sia pagata pesantemente dall'Europa tutta, Italia in primis. Quindi anche le misure draconiane prese da Putin, abbiamo visto la distruzione dei beni alimentari, fanno capire come il governo arrivi a misure anche estreme. Quindi dovessero essere sbloccate queste sanzioni a gennaio del prossimo anno sarebbe un bene per tutti. Ecco, ricordo che negli ultimi 12 mesi il rublo ha perso il 43% nel cambio sul dollaro. La banca centrale russa, che in un primo momento aveva fatto salire il tasso di riferimento al 17% proprio per contrastare il crollo del rublo, ha tagliato per ben 5 volte dall'inizio dell'anno il costo del denaro, portandolo all'11%. Nel frattempo galoppa l'inflazione, a luglio i prezzi risultano in aumento del 15,9% rispetto allo stesso mese del 2014. Cosa sta mancando alla Russia? La domanda interna o soprattutto le sue esportazioni? Ma sono soprattutto le esportazioni, certamente c'è un calo dei consumi e una contrazione del settore industriale del 5% nel secondo trimestre, ma sono soprattutto le esportazioni che mancano e quindi bisogna, come dicevamo, arginare questo calo nei rendimenti e nei redditi reali anche della popolazione che non si vedeva da quando Putin da ormai 15 anni è al potere. Quindi è importantissimo che si arrivi a una contrazione dell'inflazione, perché questa alta inflazione sta danneggiando evidentemente all'interno il paese e soprattutto i redditi della popolazione. Ecco, la situazione della Russia poi indirettamente colpisce anche chi esporta in Russia, parlo proprio del nostro paese. Ricordiamo che la risposta russa alle sanzioni imposte dall'Occidente dopo la crisi ucraina è stato un embargo sui prodotti agroalimentari che colpiscono soprattutto l'Italia. Si sta muovendo qualcosa in tal senso? Ci sono sviluppi a breve? No, l'unico sviluppo che ci può essere è solamente ridurre o eliminare totalmente le sanzioni. Abbiamo pagato queste sanzioni a livello italiano con posti di lavoro e con il blocco dell'attività di parecchie imprese che a livello manufatturiero stavano lavorando molto bene in Russia, per non parlare dei danni al settore del lusso oltre a quello alimentare che per noi sono delle eccellenze. Indubbiamente, noi parliamo sempre del settore agroalimentare, la Coldiretti ha stimato che tale provvedimento, cioè l'embargo, sia costato all'Italia circa 240 milioni di euro in un anno di mancato export, ma lei giustamente ricordava anche il lusso, quanto sia importante in Russia. Quindi anche la concomitanza di questa svalutazione del yuan renminbi in Cina, il calo dell'economia cinese insieme alla recessione russa a livello di sistema e anche per l'Europa è un peso che può essere sollevato solamente da delle misure molto più opportunistiche, se vogliamo, e lungimiranti, che riguardano proprio la rivalutazione delle sanzioni. Bene, bene. Bene così, ringrazio Claudia Segre, segretario generale Assium Forex. Per oggi per Focus Economia è tutto, un ringraziamento allora a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, ad Alessandro Chiappini e Pietro Lacorte in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta.